sentite per il tuo, eh? Ultimamente quando sono fatto svegliare di notte, ti ho dato l'ultimo avvertimento, hai capito? Sfroscionato. Adesso ti stanno arrivando i carabinieri a casa tua. 24-6-6-6-4, te lo devo far svegliare tutta la notte. Brutto coglione! Brutto coglione! Bastardo, hai capito? Stronzo, bastardo, froscio. Figlio di puttana! D4-6-3-6-4, vedi com'è il tuo numero? Brutto porco drogato! Porco drogato!